24 mattino estate con Irene Zerbini. Rischiavamo poco poco di farci cogliere nella nostra conversazione. Io e Giulia Crivelli, già pronta per la rassegna stampa. Intanto buongiorno a voi tutti, 15 minuti trascorsi dopo le 7. Tantissimo il materiale, nonostante siamo in agosto, che affronterai oggi, Giulia. Cosa c'è in primo piano? Purtroppo, diciamo, ancora tutti i giornali sulla crisi, chi l'affronta dal lato americano, chi da quello italiano, con l'intervento del nostro presidente Napolitano, che ha chiesto appunto un impegno più concreto a tutti quanti. E voglio ricordarvi che questo segna ancora una volta la differenza tra giornali stranieri e sensibilità dei giornalisti italiani, che oggi lo confinano semplicemente nella pagina sportiva, se ne parla all'estero, di un nuovo inquietante episodio nello sport, episodio di razzismo. Un ciclista italiano a Rio de Janeiro infatti è stato cacciato dal giro per aver dato del negro schifoso a un collega. Il suo direttore sportivo però ha minimizzato la vicenda, ha detto che in Italia non si tratta di un vero e proprio epiteto razzista, ma di un insulto privo di significato e dettato dalla fatica della competizione. A questo punto mi auguro, Giulia, che tu non ti stanchi troppo durante la rassegna stampa e ti lascio alla lettura dei giornali. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Un po' un fuori programma questo, perché ieri mi ero congedata dicendo ci sentiamo settimana prossima, in realtà poi c'è stato un cambiamento di programma, quindi ancora buongiorno a tutti. Io sono solo contenta di essere qui anche oggi e iniziamo dal Sole 24 Ore, perché per l'ennesimo giorno sono in realtà tutti i quotidiani ad avere un titolo d'apertura prettamente economico, e quindi è giusto proprio iniziare dal Sole 24 Ore, che oggi, come nei giorni scorsi, che ormai da più di un mese ha delle pagine di approfondimento su tutti gli aspetti della crisi, che non sono naturalmente soltanto fino a settimana scorsa il default della Grecia, ma oggi, ieri e nel weekend il rischio di default degli Stati Uniti, poi scongiurato, e poi gli effetti sulla borsa quando i mercati hanno aperto lunedì. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore è: vola lo spread BTP Bund, esame crescita per l'Italia. Lo spread BTP Bund è la differenza tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, che è un buon indice per capire appunto quanta fiducia diano i mercati ai nostri titoli di Stato, che naturalmente sono quelli che finanziano il nostro debito pubblico altissimo, come quello della Grecia e come quello degli Stati Uniti. Il confronto europeo sugli spread è la tabella con il differenziale degli ultimi due anni sui titoli di Stato di Italia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Grecia, confrontato appunto con quelli tedeschi. Vi segnalo tutti questi approfondimenti. Continua la serie iniziata una settimana fa di approfondimento, ogni giorno un argomento diverso dedicato al risparmio. Oggi c'è la previdenza complementare con un articolo di Marco Lo Conte. L'altro speciale, tutto manovra, oggi l'approfondimento è sugli espropri, e poi c'è il manuale anticrisi, le aree del nuovo sviluppo, un articolo di Fabrizio Galimberti che spiega quale sia la concorrenza, che lui definisce low cost, dei paesi dove appunto alcuni voci del costo del lavoro per esempio sono molto inferiori naturalmente a quelle italiane, a quelle di altri paesi, e poi tutta l'analisi su quello che è successo ieri a Piazza Affari, quindi i titoli ai raggi X, le società che cercano di battere la caduta del listino, un lungo articolo di Vittorio Carlini nella prima pagina del dorso di Finanza. Dalla prima pagina vi segnalo anche tre articoli di analisi sulla situazione politica. Prova che il Premier non può fallire è l'articolo di Stefano Folli, che anticipa l'intervento di Silvio Berlusconi. Avete sentito, anche Radio 24 dedicherà uno speciale di un'ora a questo intervento di Silvio Berlusconi alle Camere. E poi un articolo di Guido Gentili, le risposte che deve dare Berlusconi alle Camere, prima parte, e il secondo commento e le parole che non deve dire Berlusconi alle Camere, parte seconda, di Luigi Guiso e Luigi Zingales. Dalla prima pagina vi segnalo anche un corsivo di Fabrizio Galimberti, che è uno dei nostri editorialisti di punta sulle questioni economiche, e scrive così: fondamentali e mercato. È un paradosso. Le fibrillazioni dei mercati e l'allargamento dello spread fra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi tradiscono le preoccupazioni sulle finanze italiane. Se si guarda alle temperie politiche e ai conti, si ritrovano debolezze di governo e fatiche di crescita, ma non problemi nella finanza pubblica. Anzi, questa, relativamente a quel che succede altrove, si conferma uno dei punti di forza dei nostri conti. I dati ultimi del fabbisogno sono confortanti e indicano che stiamo avanti nella tabella di marcia che dovrebbe portare il disavanzo dal 4,6% del PIL nel 2010 al 3,9% nel 2011. Sta migliorando anche il saldo primario, esclusi gli interessi, che si conferma in surplus. Keynes ammoniva così un investitore che, convinto dell'irrazionalità di un mercato, decidesse di scommettergli contro. Il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente. Sia consentito parafrasare: l'Italia può rimanere solvente più a lungo di quanto il mercato possa rimanere irrazionale. E quindi una nuova puntata, insomma, nel dibattito sugli quelli che Keynes chiamava gli animal spirits, l'anima animale del mercato, e che si può naturalmente anche definire l'irrazionalità del mercato a volte. Passiamo al Corriere della Sera. In questo caso il titolo è sempre sulla crisi e su tutto quello che significa per l'Italia e per il mondo, ma punta sull'intervento di ieri del presidente Napolitano. Ora nuove misure. C'è stato un incontro con Draghi, le borse, scrive il Corriere, ancora in caduta. Dalla UE però è arrivata una chiara dichiarazione di fiducia all'Italia e alla manovra recentemente varata. Oggi Berlusconi in Parlamento, ricorda il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale del direttore Ferruccio De Bortoli. Primo, domare subito l'incendio, così si intitola. Ve ne leggo una piccola parte, che è quella che riguarda strettamente l'intervento di oggi di Berlusconi alle Camere. Berlusconi parlerà oggi alle Camere, scrive De Bortoli, chiamato a un difficile compito e forse all'ultima drammatica prova da statista che la storia gli assegni. Convincere i mercati della serietà della nostra correzione dei conti e della nostra volontà di crescere. Finora il governo non ci è riuscito, quello che scriveva prima Fabrizio Galimberti. La manovra da 80 miliardi, compresa la delega fiscale, è apparsa poco credibile perché nell'arco di prevedibile durata di questo esecutivo vale appena 15 miliardi, il 19% del totale. Le uniche misure immediate, i ticket, sono state applicate solo da alcune regioni e apertamente contestate dalla Lega. Come possono i mercati fare affidamento su provvedimenti subito smentiti da una parte della maggioranza che li ha votati? E perché mai devono aver fiducia in un esecutivo che concentra la propria azione sul processo lungo o sul trasloco di tre stanze ministeriali a Monza? Una maggioranza che non governa è un unicum costituzionale, ma oltre a fare male al Paese, scava la fossa a se stessa. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche, visto che accennava anche De Bortoli a questa questione dei tre ministeri distaccati a Monza, le sedi di tre ministeri distaccati a Monza, scrive Michele Ainis, che è un costituzionalista, sul Corriere della Sera: il silenzio, il rituale sui ministeri al nord, e ci spiega qual è l'intricata questione della costituzionalità o meno, che è stata appunto paventata dal capo di Stato, da Napolitano, cioè l'incostituzionalità di questo trasferimento di tre sedi dei ministeri al nord, e ci spiega che in effetti è una questione tutt'altro che chiarita. Il silenzio e il rituale sui ministeri al nord, Michele Ainis, sulla prima pagina del Corriere della Sera. Dalla Repubblica il titolo anche in questo caso si concentra sull'intervento di ieri di Napolitano. Crisi, l'allarme di Napolitano, subito misure per la crescita, questo ha detto ieri il Presidente della Repubblica. E poi Repubblica ricorda il calo di ieri della Borsa di Milano. Lunedì era stato del 3,8, ieri è stato un pochino più contenuto, ma comunque un calo del 2,53%. Vi segnalo dalla prima pagina di Repubblica, se avremo tempo magari ne leggeremo una parte dopo, perché in prima pagina viene richiamato un articolo che occupa due pagine all'interno, di Angelo Acquaro, inviato a New York di Repubblica. Quest'anno, il 2011, sono passati 10 anni dal famoso 11 settembre 2011, l'attacco a New York e contemporaneamente al Pentagono. 10 anni dopo ritorno a Ground Zero. Naturalmente il culmine dei festeggiamenti, dei ricordi sarà a settembre, però si comincia già a vedere, a scoprire, ad alzare il velo sul nuovo Ground Zero, scrive Angelo Quaro, il cielo sopra Ground Zero è limpido come quell'11 settembre, ma dal 50° piano della Freedom Tower nulla è più come prima. Il primo aereo è sbucato da lì, dall'autostrada nelle nuvole che insegue il percorso dell'Hudson, il fiume che diede vita a New York e poi la tradita morte accompagnando al bersaglio 10 dirottatori dell'Apocalisse. Alle 8.45 l'American Airlines Flight 11 si schiantò a 600 km all'ora sulla Torre Nord, che adesso è quella vasca che si vede qui sotto. Un buco nero di 2,5 km, profondo 10 metri. La Torre Sud fu la seconda a essere colpita. Al volo American Airlines 175 la centrò alle 9.04 e 61 minuti dopo era già in macerie. Anche il suo perimetro adesso raccoglie una vasca, uguale e speculare all'altra. Sembra impossibile, ma questo cantiere infinito che romba 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana, 10 km quadrati, 5.000 operai, tra un mese diventerà un giardino di meditazione. La prima pagina della Stampa, titolo praticamente identico a quello di Repubblica, crisi, l'allarme di Napolitano, il presidente vede Draghi e chiede al governo norme per la crescita e un confronto con le parti sociali. Oggi Berlusconi interviene in Parlamento, forse arriva la tassa sul fumo che sostituirà i ticket sanitari, di cui appunto parlava De Bortoli nel suo editoriale, quei ticket talmente contestati che alcune regioni hanno già annunciato che non li applicheranno, benché sarebbero tenute a farlo. E dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche una fotonotizia su una notizia che c'è soltanto sulla Stampa, che riguarda Cuba. A Cuba si compra casa. Raúl Castro, il fratello di Fidel, che da credo 2 anni o forse addirittura 3 ha di fatto sostituito il fratello alla guida di Cuba perché Fidel Castro è molto malato, Raúl Castro apre al mercato, per ora potranno acquistare però soltanto gli isolani, e c'è una foto di Cuba. All'interno c'è anche un commento di questo di Ionis Sanchez, che è quella blogger cubana molto famosa, la sua rubrica c'è anche su Internazionale. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, abbiamo visto le prime pagine di Corriere Repubblica sulle 24 ore con i titoli tutti dedicati alla crisi economica e all'annuncio che oggi alle 3 Berlusconi parlerà alle Camere della crisi economica soprattutto. In la prima pagina della Stampa, che abbiamo visto ha un titolo identico a quello di Repubblica, cioè crisi, l'allarme di Napolitano, vi segnalo però finalmente un titolo sulla crisi in Somalia, sulla carestia in Somalia e su tutto quello che sta colpendo la Somalia, cioè anche una guerra civile e naturalmente la crisi legata ai rifugiati, perché Specchio dei Tempi, che è la fondazione della Stampa, lancia una raccolta fondi per aiutare la costruzione del reparto pediatrico dell'ospedale somalo di Argeisa, e il direttore della Stampa Mario Calabresi scrive un editoriale che si intitola "Non bisogna chiudere gli occhi". Vi leggo solo le prime righe, poi continua a pagina 13. Scrive Mario Calabresi: "Più di 40 anni fa il mondo scoprì le immagini del Biafra, bambini denutriti, scheletrini con il pancione gonfio. Erano le grandi carestie a cavallo degli anni 60 e 70 che sconvolsero l'Occidente. Ora questa crisi, come vi dicevo, come ho detto nei giorni scorsi, sembra trovare pochissimo spazio sulle prime pagine dei giornali, ma oggi forse cambia qualcosa perché, come vedremo, anche altri giornali ne parlano". Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche il buongiorno di Massimo Gramellini, che è tornato ieri dalle vacanze, quindi è tornata anche la sua rubrica sulla prima pagina della Stampa, di cui è vice direttore. Il tema di oggi è quello delle vacanze più lunghe, l'avete sentito forse anche nel GR. Si è chiarito ieri che i nostri parlamentari allungheranno le loro vacanze di una settimana, quindi la Camera riaprirà il 12 settembre, perché c'è questa settimana di pellegrinaggio in Terra Santa dal 3 al 9 settembre. Ed è questo l'argomento del buongiorno di Massimo Gramellini, che vi leggo. Si intitola "La casta pellegrina". La notizia che il Parlamento resterà chiuso fino a metà settembre per consentire a 200 deputati e senatori di fare un pellegrinaggio in Terra Santa ha ridato un po' di fiato ai mercati, ma ha gettato nel panico la Terra Santa. Il sospetto è che, vista l'aria che tira in Italia, decidano di rimanervi per sempre. Permane un fitto mistero sulle ragioni vere della visita. Escludiamo che siano interessati a studiare lo stile di vita di Gesù, mentre potrebbero nutrire una curiosità professionale per i mercanti del Tempio e per uno dei due ladroni crocefissi, quello non pentito. L'ipotesi che vogliano girare un remake di Brancaleone alle crociate è destituita di ogni fondamento, non hanno il senso del ridicolo. Così come è improbabile che intendano fondare un nuovo ordine templare, non hanno neanche il senso del tragico. Qualcuno immagina che vadano a chiedere una grazia, però lì il foro competente è Lourdes. Qualcun altro spera che vadano a chiedere scusa o pietà, però è a noi che dovrebbero chiederle e potrebbero farlo comodamente dal salotto di casa, dove invece convocano le telecamere per accusarsi a vicenda di rubare. Una penitenza? Ci crederemmo soltanto se marciassero a piedi scalzi e battendosi il telefonino intercettato sul petto. No, la motivazione più verosimile del pellegrinaggio, nonché la più coerente con la natura intima dei pellegrini, è che si tratti di una bella vacanza, formalmente a spese loro, ma di fatto pagata con lo stipendio che noi gli verseremo puntualmente anche a settembre, perché continuino a darci il cattivo esempio. Era Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa, nella sua rubrica Il Buongiorno. Passiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'estate è tempo di calciomercato, la prima partita importante sarà quella di sabato 6 agosto, la Supercoppa tra Milan e Inter che si giocherà però in Asia. Snyder doppio derby, scrive la Gazzetta, e il doppio derby è quello del mercato e della Supercoppa. Vi segnalo poi all'interno delle pagine della Gazzetta dello Sport la notizia di cui parlava Irene prima, che sarà il tema di 24 mattina subito dopo la rassegna stampa, ed è l'esclusione di Marco Coledan dal tour di Rio, perché Marco Coledan, questo ciclista, ha chiamato sporco negro un ciclista brasiliano, Renato Santos. Il direttore sportivo Mirko Rossato, che sarà ospite di 24 mattina, ha risposto dicendo che non è in Italia questo insulto, lo ripeto, sporco negro. Secondo Mirko Rossato non avrebbe alcun connotato razzista. Questo appunto il tema di 24 mattina. Passiamo alla un'ultima cosa, segnalo che non ho notato, magari mi è sfuggita, ma comunque se mi è sfuggita vuol dire che aveva spazio, uno spazio molto piccolo, sugli altri giornali italiani questa notizia non l'ho trovata. La prima pagina del Messaggero, il titolo di apertura è Appello di Napoletano sulla crisi, quindi come gli altri giornali. Vi segnalo poi una notizia che avete sentito nei GR e che c'è su tutti i giornali naturalmente, e che è quella del voto di ieri che ha negato l'uso delle intercettazioni per Denis Verdini, uno dei coordinatori del PDL, ma invece le ha autorizzate per Marco Milanese, l'ex consulente di Giulio Tremonti. C'è un commento di Lucetta Scaraffia, questione morale, ruolo dei cattolici. Vi leggo solo le prime righe, continua poi a pagina 8 del Messaggero. Dopo le donne, i soldi. E di nuovo sembra ricominciare Tangentopoli, tanto estesa da coinvolgere ormai tutto il sistema politico italiano. Ci accorgiamo così, ancora una volta, che la scoperta della corruzione, del privilegio economico ottenuto attraverso la carica pubblica, fa sempre più impressione delle notti brave passate con giovani ragazze a pagamento. La prima pagina del Giornale. Berlusconi si gioca tutto, il riferimento è all'intervento di Silvio Berlusconi alle 3 alla Camera. Vi ricordo che ci sarà uno speciale di Radio 24 dalle 3 alle 4, perché è sicuramente un intervento importante, molto atteso, quello di Berlusconi alle Camere. Qui il commento è del direttore del Giornale Vittorio Feltri su Tremonti e non solo. Vi leggo solo le prime righe. Sparare su Giulio Tremonti è come sparare sulla Croce Rossa, non sta bene. Il ministro ha lavorato con bravura e coraggio per 3 anni, ha fatto i cosiddetti tagli orizzontali, ha detto pressappoco ai responsabili dei vari dicasteri: abbassate le spese del 10%, come? Arrangiatevi. I ministri si sono arrabbiati perché non avevano quattrini a sufficienza per far fronte agli impegni. Intanto però i conti sono tornati sotto controllo e il paese di Riffa di Raffa ha galleggiato. E poi continua dicendo che però questa fase della vita politica di Tremonti ora ha lasciato lo spazio a una fase in cui invece è molto più contestato e indebolito, per questo scrive Feltri, appunto, sparare su di lui è come sparare sulla Croce Rossa. Dalla prima pagina di Libero invece il titolo Silvio, la patrimoniale no. Berlusconi si gioca tutto e scrive Libero, in ambienti vicini al governo prende corpo l'idea che Libero definisce indecente, appunto, di una tassa patrimoniale. Sarebbe una follia, i modi per uscire dalla crisi sono altri, tagli e riforme. Oggi alla Camera il Premier deve sorprenderci. La prima pagina dell'Avvenire, serve più crescita, il virgolettato di Napolitano di ieri. Napolitano chiede nuove misure in un altro giorno di passione per i mercati. Abbiamo visto, le borse hanno perso un po' meno di quello che avevano perso lunedì, ma comunque sono scese. Milano in particolare, anziché il 3,8 è scesa del 2,7. Tremonti è volato in Europa, ricorda l'avvenire nel catenaccio, la riga o le due righe sotto il titolo, questo è il nostro gergo giornalistico. Oggi Berlusconi alle Camere, un asse con Draghi, il nuovo governatore della BCE, lo ricordiamo, ex governatore di Banca Italia. Due le fotonotizie in prima pagina dell'Avvenire, una è sull'Iraq, una bomba ha fatto ieri 23 feriti ed è stata una bomba contro una chiesa, e l'altro la Somalia, la carestia avanza, l'allarme delle Nazioni Unite. Vi segnalo dalla prima pagina dell'Avvenire, come ho fatto ieri, la rubrica di Gianfranco Ravasi, si chiama Il Mattutino, oggi è intitolata Meditare è medicare. Come sempre Ravasi prende un brano di un testo religioso o anche non religioso e poi lo commenta. Il piccolo brano è tratto dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi ed è questo: meditare è un'occupazione potente e piena, io preferisco formare la mia anima piuttosto che arredarla, così diceva Leopardi, e scrive invece Ravasi: meditare per qualche minuto ogni giorno non è tempo perso, anzi è una sorta di fermento che feconda il nostro pensare e agire, impedendo che si disperdano in vanità e fumo. È una medicazione necessaria soprattutto quando la superficialità ha aperto tante feritoie nella nostra coscienza, lasciando che da essa fuoriescano e si disperdano nel vuoto l'interiorità, la sensibilità morale, l'anelito per la verità. Vi ricordate quando a scuola si imparavano quei versi di Petrarca? Solo e pensoso i più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti. Ecco, nell'agitarsi frenetico della società contemporanea rallentiamo, appartiamoci e pensiamo, anzi meditiamo, e come vi dico sempre, un po' noiosamente forse, meditiamo magari anche dopo aver letto qualche articolo di giornale, di approfondimento, in questi giorni in cui forse si ha un po' più tempo del solito. E ora infatti passiamo dalle prime pagine agli articoli interni dei giornali, che a volte sono simili, a volte invece sono diversi da giornale a giornale. Vi segnalo dal Corriere della Sera un articolo di Maria Laura Rodotà che mi ha molto divertita, e ci sono tre foto di Angela Merkel, il cancelliere tedesco della Germania, una del 2008, una del 2010, una del 2011. La prima scattata al Festival di Salisburgo, la seconda al Festival di Bayreuth e la terza quest'anno appunto di nuovo al Festival di Salisburgo. Angela Merkel aveva sempre lo stesso vestito e i giornali tedeschi non solo l'hanno notato. L'articolo di Maria Laura Rodotà si intitola Merkel al concerto col solito vestito, che male c'è? Scrive Maria Laura Rodotà: alcuni implacabili rotocalchi, tabloid, siti, cani da guardia della democrazia hanno notato che la cancelliera si è messa lo stesso completo addirittura due volte, una al Festival di Bayreuth, un'altra, orrore, sempre a Salisburgo. E dalla Mise è scaturita spontanea una domanda: Merkel lo fa per tirchieria o per sensibilità verso i popoli della Germania e di Eurolandia colpiti dalla crisi o comunque preoccupati? Anche senza conoscere Angela Merkel, viene da rispondere per nessuno dei due motivi. La cancelliera non ha un contratto per fare défilé. Ha alcuni vestiti, di stili forse discutibili ma coerenti e dignitosi, li sceglie secondo l'occasione. Ne ha uno che chiaramente ha selezionato come difesa da festival estivo di musica classica. E va bene così, è una questione di pari opportunità anche. Quando Berlusconi o Sarkozy, per dire, si ripetono, nessun tabloid insorge proponendo colpevolizzanti gallerie fotografiche. Genere è la quarta volta che indossa il completo sciancrato antracite a due bottoni, o, a seconda delle occasioni, aveva la stessa camicia celeste sia all'Eliseo sia all'Eliseo sia a Matignon, o si è messo la stessa cravatta sia alla presentazione del libro di Scilipoti sia al compleanno di Katia Polidori. Se Merkel non perde tempo a scegliere abiti da sera è perché ha da fare, notoriamente, scrive Maria Laura Rodotà sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera, solo per chi lo compra a Milano, perché nelle pagine milanesi, vi segnalo un'inchiesta sui pass per gli invalidi, tutti i trucchi degli abusivi, ma stiamo parlando dei trucchi appunto attuati a Milano e dintorni, quindi questa vicenda di queste truffe che a volte superficialmente pensiamo che siano molto diffuse soltanto al sud, bene, invece Milano dimostra con questa inchiesta del Corriere della Sera di essere all'avanguardia anche in questo. Un'altra segnalazione dal Corriere, poi lasciamo lo spazio alle notizie sul traffico. Dalle pagine di Cultura, un articolo di Sandro Modeo sulla figura di Lewis Wolpert, un ricercatore che si occupa dell'infinitamente piccolo. L'articolo si intitola Vita avventurosa delle cellule, un trattato di sociologia del corpo umano, quasi un trattato di sociologia, il suo libro appunto sull'infinitamente piccolo. In primo piano, Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, stiamo scorrendo le pagine interne dei giornali, però un ascoltatore Paolo mi ha mandato un sms e ha segnalato che in realtà ieri su alcuni giornali la notizia che sarà il tema di 24 Mattina c'era, che è il ciclista italiano escluso dal Tour di Rio de Janeiro perché ha dato dello sporco negro a un suo avversario, e il direttore tecnico di questo ciclista si è giustificato dicendo che in Italia non sarebbe considerato un insulto razzista, mentre l'esclusione dal Tour di Rio è motivata proprio da questo, che quell'espressione è una considerata in Brasile un insulto razzista. Grazie Paolo per la segnalazione, a me era colpevolmente sfuggita questa notizia. Dal Corriere della Sera vi segnalo dalle pagine interne un intervento di Giuliano Pisapia. Qualche giorno fa, mi sembra lunedì, c'era sul Corriere della Sera un intervento di Umberto Veronesi che invitava a utilizzare l'Expo 2015 che si terrà a Milano e che ha come tema nutrire il pianeta, per approfondire appunto queste tematiche, in particolare oggi con questa nuova crisi in Somalia, nuova carestia in Somalia. E scrive Giuliano Pisapia in questo intervento: sono d'accordo con Veronesi naturalmente, e poi c'era anche stato un appello di Romano Prodi, usiamo l'Expo per aiutare a nutrire il pianeta. Per richiamare l'articolo, il Corriere della Sera sceglie due virgolettate di questo intervento abbastanza lungo. Scrive Giuliano Pisapia, sindaco di Milano: la situazione in Africa orientale deve essere considerata un'emergenza politica e sociale che riguarda tutti. Nel 2015 dovremo lanciare un nuovo modo di intendere la cooperazione allo sviluppo tra paesi. Dalle pagine interne di Repubblica vi segnalo l'approfondimento sul primo sì che c'è stato ieri in Parlamento al divieto di burka in Italia: multe salate e carcere per chi costringe a metterlo. Il PDL esulta, vittoria delle donne, mentre il PD l'ha definita una legge ingiusta e inutile. C'è un confronto, due utili schemini, uno su come si comportano altri paesi. In Francia per esempio è assolutamente vietato dissimulare il volto, chi obbliga una donna rischia un anno di cella e 30.000 euro. In Gran Bretagna il governo ha deciso di non esprimersi su burka e niqab, che invece è quel tipo di velo che copre tutto tranne gli occhi, e in Belgio burka e niqab sono proibiti. C'è poi un altro piccolo schemino dove ci vengono spiegate le varie differenze, perché per noi occidentali non sempre è così facile distinguere. C'è appunto il burka, che sappiamo è quello delle donne, soprattutto delle donne in Afghanistan, che copre tutto, in corrispondenza degli occhi c'è soltanto una piccola retina, il niqab che lascia invece scoperto gli occhi, poi c'è il chador che lascia scoperto l'intero viso, e altri tipi di velo ancora. Dalle pagine di Repubblica vi segnalo anche la maca di Michele Serra, che oggi ragiona su questa parola, su questa generalizzazione Italia. Sì, l'Italia è il nostro paese, però dire per esempio Italia nel mirino o attacco all'Italia, come leggerò tra poco, ci ricorda Michele Serra, forse è un'espressione un po' troppo generalista. Che cosa c'è dietro? Cerca di spiegarlo Michele Serra. Quando si legge Italia nel mirino, attacco all'Italia, si vorrebbe capire meglio. Italia non è un concetto così compatto, così rotondo, da permetterci di equivocare su differenze sociali enormi che espongono ai morsi della crisi in modo assai difforme. Ci sono italiani che vincono e perdono in borsa milioni di euro, italiani per i quali un crollo in Piazza Affari è solo un'eco lontana. Ci sono italiani per i quali Italia e lo Stato sociale sono un dramma vero, altri che non ne risentono affatto. Ci sono italiani per i quali un aggravio fiscale anche di mezzo punto è un'ulteriore mazzata, altri ai quali non importa nulla perché dichiarano redditi ridicoli e il loro bottino è in nero, nascosto e inattaccabile come il bottino del ladro o il gruzzolo del tirchio. Nei tempi andati si è forse esagerato con l'analisi di classe, ora si è caduti nell'errore opposto: le classi e i conflitti di classe sono spariti dal discorso politico, espunti dal vocabolario corrente, e proprio in un momento storico di drammatica contrapposizione tra interessi diversi, spesso opposti. Il salariato e lo speculatore, il giovane precario e Marchionne non stanno giocando la stessa partita. È bene che esista un sentimento nazionale, di comunità, ma è bene anche che questo sentimento non valga come sipario ipocrita, come truffa ideologica, per occultare le ben differenti condizioni sociali ed economiche nascoste nella parola Italia. La prima pagina della Stampa con l'articolo l'accenno alla raccolta fondi per la Somalia ve l'ho segnalata. Dalle pagine interne vi segnalo un approfondimento di due pagine su quello che viene chiamato l'SOS carestia, la guerra del cibo per salvare il Corno d'Africa, con una descrizione del grande ponte aereo dei soccorsi mondiali che però, scrive La Stampa, non basta. Una notizia un po' più leggera dalla Stampa è quella raccontata da Giuseppe Salvaggiulo, inviato a Bernalda, Matera, perché a Bernalda si celebreranno il 27 agosto le nozze di Sofia Coppola, la figlia di Francis Ford Coppola, il regista americano di origini italiane, e titola la Stampa: le nozze di Sofia fanno sognare il paese perduto. Bernalda si prepara al grande giorno e ci sono VIP attesi di tutti i generi, tra cui Nicolas Cage, e c'è chi spera anche in Al Pacino e Roberto Benigni. Dal Sole 24 Ore, dalle pagine interne del Sole 24 Ore, vi segnalo un approfondimento su Mubarak. Avete sentito anche nel GR: Mubarak oggi sarà al Cairo per il processo che lo vede imputato. Mubarak in aula, l'Egitto attende la sua Norimberga. È l'analisi appunto della parabola politica, anche umana, di Mubarak, raccontata da Ugo Tramballi, che è stato per tanti anni inviato del Sole 24 Ore e ancora oggi è forse uno dei più esperti di tutte le questioni medio orientali. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo di Rita Fatiguso sulla contraffazione, un tema che noi seguiamo molto da vicino sul Sole 24 Ore. Il titolo è: il boom dell'online traina gli affari della contraffazione, la lotta ai falsi. C'è uno schemino che riassume tutti gli interventi della Guardia di Finanza e che però appunto sembra sempre di svuotare il mare con un cucchiaino, perché per quanti interventi si possano fare, la contraffazione è un business in costante crescita. Dal Sole 24 Ore vi segnalo oggi: il Sole 24 Ore al mercoledì esce con i dorsi regionali. Io posso segnalarvi quello della Lombardia e il titolo è: Pisapia sceriffo, che il sindaco di Milano prepara lo staff anti-evasione. Ci sarà una squadra di 30 tecnici che collaborerà con il fisco per scovare chi non paga. Abbiamo ancora pochissimo tempo, vi segnalo allora solo una notizia molto curiosa. Abbiamo letto l'editoriale di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Ecco, il giornale riporta questa notizia curiosa: giallo su Twitter, De Bortoli scippato dell'iPad, il ladro attacca Formigoni. Un Twitter da mezzogiorno di fuoco, con il governatore della Lombardia Formigoni che invita tutti al meeting di CL, il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli che dal suo account, aperto di recente da una settimana, replica secco: ma basta, va bene usare Twitter per promuoversi, ma bisogna farlo con stile, e poi non puoi fare solo quello. Apriti cielo, pochi minuti il messaggio del direttore sparisce dalla pagina senza lasciare traccia, e lui spiega al giornale: stamattina mi hanno rubato l'iPad, ho fatto denuncia alle 14:30, non so cosa sia successo, avrei molti motivi per fare politica con Formigoni, ma non questo. Caso chiuso e caccia al hacker. E purtroppo il nostro tempo è finito, ve lo dico di nuovo: comprate i giornali oggi, seguite il consiglio di Gianfranco Ravasi sull'Avvenire, meditiamo, leggiamo, ci sono tante notizie che magari non avremmo invece modo di approfondire. Ti ho sentito parlare di arredamento dell'anima. Sì, arredamento dell'anima, Giacomo Leopardi che diceva, che paragonando forse semplicemente il cercare nozioni all'arredare l'anima, meglio meditare su quelle che abbiamo già. Beh, è incredibile come tu riesca a fare questi innesti poetici dopo aver letto e aver percorso le notizie del giorno. Ti fanno i complimenti anche gli ascoltatori. 349-238-6666, ne approfitto per ricordarlo, è il numero degli SMS. Oggi in 24 Mattino Estate parleremo di un nuovo episodio di razzismo nello sport. Un ciclista italiano, l'abbiamo ripetuto varie volte, è stato cacciato dal Giro per aver dato del negro schifoso a un collega, ma quello che fa riflettere è la difesa del direttore sportivo, che ha dichiarato al Mondo che in Italia non si tratta di un epiteto razzista, ma è un insulto privo di significato, dettato dalla fatica della competizione. In Brasile, dove è avvenuto il fatto, la normativa sul razzismo è molto severa, e non solo in Brasile, l'espulsione è arrivata nel giro di poche ore, ma addirittura il ciclista italiano avrebbe potuto essere arrestato. Da noi invece cosa sarebbe capitato? Sottovalutiamo episodi di questo tipo? Per i vostri messaggi vi ho fornito il numero di SMS, potete intervenire anche al telefono all'800 24 00 24 dalle 8:30. 24 Mattino Estate con Irene Zerbini. 21 minuti dopo le 8, ben ritrovati. Ci si sta esercitando un po' troppo con gli epiteti razzisti tramite SMS. La tematica è serissima e ripresa con la serietà che merita dai giornali stranieri. In Italia invece è confinata nelle pagine sportive. Cosa è successo? L'italiano Marco Coledan del team Bottoli Trevigiani Dynamo, che in passato è stato anche pistard in azzurro, è stato espulso dal giro ciclistico della regione di Rio in Brasile perché ha insultato con epiteti razzisti un collega che in quel momento non voleva dargli il cambio, sembra. I fatti erano stati riferiti da un quotidiano di Sao Paolo, il Fola. Risalgono a sabato in realtà. Coledan ha chiesto al brasiliano Renato Santos di dargli il cambio per andare a tirare il gruppo. Al rifiuto di quest'ultimo, il trevigiano, il ciclista italiano, avrebbe insultato il collega dicendogli negro schifoso. Questo tipo di insulto in Italia non è considerato razzista, ha spiegato Mirko Rossato, che è il direttore sportivo della Trevigiani. A quel punto, quando è arrivata la difesa e la spiegazione di ciò che gli italiani considerano o non considerano razzismo, la notizia si è conquistata i titoli dei giornali. Ne discuteremo tra pochissimo alle 8:30, prima però il solito incontro con i corrispondenti stranieri che vivono in Italia. Visti da fuori. Buongiorno a Salvatore Aloise. Sì, buongiorno. Salvatore Aloise è il corrispondente in Italia per il francese Le Monde. Naturalmente il tuo cognome tradisce origini italiane. Sì, sì, appunto, se cercavate qualcuno di esotico cascate male, perché io sono italiano di origini, calabrese per la precisione, ma di famiglia emigrata in Francia e di ritorno qui come giornalista alla fine degli anni Ottanta, e scrivo appunto da 20 anni per Le Monde. Siamo in due sempre per Le Monde, perché come mi diceva un direttore, se, togliere il posto fisso di Roma per il servizio esteri di Le Monde sarebbe stata una rivoluzione, perché tutti a Parigi sognano prima o poi di venire in Italia, gente razza romena. Salvatore, non cercavamo nulla di esotico, anzi è molto significativa la tua esperienza e il tuo cognome, perché racconta la contemporaneità. In quali anni, se te lo posso chiedere, i tuoi genitori dalla Calabria emigrarono in Francia? Alla fine degli anni 50. E oggi tu ci torni con un posto decisamente di prestigio. Ora, secondo te, da quello che osservi in Italia, i figli dei nostri immigrati cingalesi, moldavi, marocchini, possono nel corso della prima generazione integrarsi e ambire a posti anche di lavoro di questo tipo? Beh, è dura, ecco, cioè, la mia esperienza qui, appunto, perché poi io sono arrivato in quegli anni in cui appunto emergeva in Italia appunto il fenomeno dell'immigrazione, appunto mi ha fatto capire come è dura. Anche la notizia che davate prima su quell'epiteto razzista, me ne sono accorto in tanti anni che è dura, e ci vuole forse tempo, immagino. Però si cominciano a vedere che anche per le seconde generazioni si comincia ad avere spazio, ma il primo sguardo è sempre quello di non vederli come italiani, e questa sarà dura a far passare, perché ormai anche l'Italia naturalmente è una società che si apre, che si deve aprire. Multietnica di fatto, ma che ancora ha diverse resistenze a riconoscere anche i basilari diritti. Ecco, un epiteto di questo genere, per esempio, sarebbe stato condonato dall'opinione pubblica e dalla stampa francese? No, però no, allo stesso tempo, sai, come, non è che la Francia in Francia... Non ci siano problemi. Che si stia bene da questo punto di vista, insomma, rispetto a anche agli immigrati lì, rispetto soprattutto a quelli provenienti dai paesi nordafricani, sappiamo bene, insomma, che cosa c'è, che tipo anche lì di situazione c'è, insomma, non è che sia tutto risolto, anzi per niente. Senti, Salvatore Aloise, cosa ti chiede, la parte, naturalmente immagino, seguire le vicende del governo e del Parlamento italiano, cosa ti chiede il tuo caporedattore, quello preposto agli esteri, dall'Italia ultimamente? Beh, dall'Italia ultimamente no. Per esempio, mi sono adesso, ho appunto finito di scrivere, perché ho ripreso un po' tutta la storia su quello che è avvenuto a Lampedusa, per sempre terribile, insomma, e ho appunto scritto anche su D'Avanzo, perché noi raccogliamo poi in giorni le varie, come si dice, dispersion, e quindi insomma sono così giù. Ma ecco, e oggi naturalmente seguiremo, come penso se seguiranno in tanti, il discorso di Berlusconi, e vedere un po' come l'Italia reagirà, se reagirà. Certo. Cos'è più difficile da far capire ai tuoi lettori in Francia? Quali sono le precisazioni che ti richiedono più inchiostro, diciamo così? Beh, naturalmente, cioè, se uno va a guardare in questi 20 anni, non so, 80-90%, ci sarà delle cose che ho scritto, ci sarà la parola Berlusconi, insomma, quindi bisogna dire che in qualche modo ha segnato naturalmente quest'epoca, e spiegare il personaggio all'inizio e continuare a spiegarlo adesso dopo tutti questi anni, ma soprattutto cercare di andare al di là degli stereotipi anche su di lui, delle volte è difficile, ecco. Quindi questa è la tua maggiore difficoltà, difficile fare una breve. Scacco al cavaliere, ho sotto mano uno dei tuoi pezzi di qualche tempo fa, secondo molti l'unica via d'uscita sono le elezioni anticipate, concludi il pezzo, nell'attesa la società civile si mobilita, 1 milione di persone ha raccolto l'appello delle donne a lottare per ridare dignità al paese. C'è anche questa questione legata ai diversi costumi, alla diversa percezione delle donne. Quando quest'anno avevo visto ti sei occupato moltissimo del caso di Karima El Maroug, e di conseguenza hai dovuto spiegare anche alle tue lettrici un po' come vive il Presidente del Consiglio italiano queste questioni. Beh sì, insomma, descrive questo mondo che appare così lontano poi da quello che è la società italiana, quello che è la società francese, eccetera. Quindi la difficoltà è proprio quella di far capire che siamo paesi così, così vicini, insomma, così affini, e con delle derive, appunto, queste sono delle derive che poi, insomma, prima o poi finiranno, insomma, siamo tutti convinti di questo, anche se lo scacco al cavaliere, appunto, era forse prematuro, però prima o poi finiranno e ritorneremo ad avere delle affinità che magari avranno meno difficoltà ad essere spiegate, ecco. Italia-Francia, finale dei mondiali, chi ti favi? In quel caso lì mi trovo bene, perché cascavo sempre bene, ecco. Non ti sei esposto, bravo, diplomatico. Corrispondente di Le Monde, grazie per la tua disponibilità. Salvatore Aloise, buona giornata. L'appuntamento con Visti da Fuori ritorna domani mattina alle 8:20. Mattino estate. Subito con il numero di telefono 800 24 00 24, perché vorremmo captare anche la vostra dissensibilità sulla tematica che affrontiamo questa mattina. Ancora buona giornata da Irene Zerbini, riepilogando in breve un episodio che contraddistingue un fatto sportivo, ma che può essere estrapolato dallo sport e fare quasi da specchio a quello che sentiamo e a quello che trasmettiamo nel mondo quando sulla scena internazionale dichiariamo: dare del negro schifoso in Italia non è razzismo, ma è semplicemente un insulto dettato dalla fatica. Riferimento naturalmente all'episodio di Coledan, dal cosiddetto caso Coledan, cioè quel ciclista giovane italiano che nel Giro di Rio ha apostrofato in questo modo un atleta, un collega che non stava facendo esattamente quello che lui si aspettava. Innanzitutto buongiorno al nostro esperto sportivo Dario Ricci, buongiorno, grazie per la levataccia Dario. Buongiorno Irene, un saluto a tutti gli ascoltatori. Non è una novità per te occuparti di situazioni imbarazzanti di questo tipo quando l'Italia si sposta sullo scenario internazionale anche per ragioni di sport? Eh no, purtroppo no, il caso legato a uno dei nostri campioni più conosciuti e discussi, Mario Balotelli, è l'esempio più tipico per quanto riguarda il calcio, ma come sappiamo Irene è un problema relativo al mondo dello sport in generale, forse in particolare anche al calcio. Faccio l'esempio delle banane lanciate al campione brasiliano Roberto Carlos durante la sua esperienza nel campionato russo, ai gol ultra del Cagliari, dei tifosi cagliaritani contro Eto'o, alle polemiche per questo progetto presunto di quote razziali nel calcio francese, polemiche recentissime di appena un paio di mesi fa, e ancora al recentissimo episodio che ha visto coinvolto l'allenatore del Verona Mandorlini, che è stato deferito per i cori a sfondo razziale contro i salernitani. Insomma, gli esempi in questo senso davvero non mancano, Irene. Mauro Valeri, autore di Che razza di tifo, buongiorno, benvenuto professore. Buongiorno. Mauro Valeri è docente anche di sociologia interetnica, delle relazioni interetniche all'Università La Sapienza. Cos'è che l'ha spinta a puntare la sua attenzione sul calcio? Visto che abbiamo sentito anche dal nostro giornalista sportivo, non ci sono paesi che possano dirsi completamente immuni. Qual è allora la differenza italiana? La differenza italiana è che c'è molta meno attenzione. Noi abbiamo, per esempio, nel campionato di calcio italiano c'è il maggior numero di episodi razzisti rispetto a quello che avviene negli altri paesi, ma questo non viene considerato come un problema. Viene molto sottaciuto, i giornali non lo mettono mai in risalto, ci sono quattro righe che spiegano, solo quest'anno ci sono stati quasi 50 episodi di razzismo riconosciuto dal giudice sportivo, però non c'è un'iniziativa della Federazione, per esempio italiana gioco calcio, contro questi fenomeni. Ci stiamo abituando, e poi soprattutto c'è una tendenza a prenderli così come uno sfogo di un momento. Sì, questo è un altro. Cioè, senza nessuna connotazione razzista, come ha detto il direttore sportivo coinvolto in quest'ultimo episodio nel ciclismo. Non c'è razzismo. No, è semplicemente che è... il mio ragazzo era affaticato? No, questa è un'idiozia totale. Cioè, è penalmente perseguibile anche in Italia. Se la persona insultata l'avesse denunciato, sarebbe penalmente perseguibile perché è un'ingiuria a sfondo razziale punita dalla legge Mancino. Quindi è una cosa che fa capire anche, come dire, l'ignoranza rispetto alla legislazione antirazzista che c'è in Italia. Tra l'altro in Brasile appunto rischiava l'arresto, si è deciso poi da parte del diretto interessato di non andare in tribunale, di non arrivare fin lì. Forse però ci si aspettava che il direttore sportivo chiedesse scusa, quantomeno un atteggiamento di civiltà che sulla scena internazionale spesso è richiesto. Perché secondo lei, Mauro Valeri, c'è questa tendenza alla quiescenza? Perché secondo me siamo diventati un po' più cattivi e in questa fase, anche legata probabilmente alla crisi, a problemi che ci sono, e li scarichiamo su delle persone che riteniamo più deboli, quindi per noi è più facile prendercela anziché con chi in questo momento può crearci dei problemi, ce la prendiamo con delle persone, ed è stato molto sdoganato, cioè non c'è più quel pudore che c'era una volta su alcuni insulti che riguardano, diciamo, delle minoranze, sia a base etnica o razziale o per scelte di altro tipo. Oggi è un po' un momento, diciamo, particolare questo, e secondo me purtroppo anche dall'osservatorio che abbiamo noi sugli episodi di razzismo purtroppo è in aumento. Sì, non è mai stata estirpata, però la pianta, definiamola così, del razzismo sta quasi rifiorendo in questi anni. Buongiorno a Lisa Riemma. Buongiorno. Lisa Riem è una professoressa che vive in Italia. Non elenco il numero di lauree che lei ha perché esauriremo la trasmissione. Diciamo semplicemente che qui in Italia è impegnata in progetti di intercultura sul territorio. Quindi vorremmo sapere da lei perché le parole che si utilizzano possono avere un carattere formativo poi anche di quello che è il comportamento. Sì, io premesso che io faccio parte di un gruppo di lavoro che si chiama Tutti Uguali, Tutti Diversi, e stiamo lavorando nella provincia di Torino per promuovere un ambiente più accogliente per gli bambini che arrivano da origine straniere nelle scuole. Lei di bambini ne ha, Lisa? Sì, sì, perché nella zona di Torino, per esempio, c'è un movimento via dalla città nelle periferie e nella provincia. Quindi questo argomento sta aumentando nelle piccole realtà, specialmente attorno alla città di Torino. Non posso dire che succede in tutti i posti, però è una cosa normale nel movimento dell'immigrazione. Quando persone arrivano, piuttosto arrivano in città e da lì si spostano per una vita, diciamo, un po' più tranquillo, è una cosa abbastanza tipica dei movimenti degli insediamenti che vanno sempre a fasi. Lei, Lisa, da dove viene? Dal Canada, di Toronto sono. E i suoi figli sono bilingui? Sì, per fortuna, insistendo, anche se devo dire in supermercato c'era chi mi guardava e diceva guarda che siamo in Italia, quando insistevo con l'inglese, ma io ho due bambine e uno adesso parla abbastanza e l'altro è perfettamente bilingue, addirittura a 5 anni ha fatto di interprete per le sue maestre dell'asilo, quando sono arrivate delle maestre inglesi dall'Inghilterra. Chiaro, e quando lei si esprime con questo accento, naturalmente Lisa ha un italiano impeccabile, ma c'è questa, lei viene confusa per straniera. Le è capitato nella vita? Sì, questo sì. Cioè, lo è straniero anche. Anche delle volte. Ma ha notato che ci sono stranieri di serie A e stranieri di serie B? Questo assolutamente. Infatti quando io faccio dei corsi interculturali, multiculturali, io inizio con io sono extracomunitaria proprio perché il canadese non è l'immagine che entra nella testa. Però posso dare proprio un esempio specifico, senza neanche dover parlare più di tanto. Quando mi mettevo il gasolio alla casa, è arrivato il signore, non mi guardava neanche, dicevo questo qui, gli sto dando tanti soldi perché non mi neanche rivolge la parola. E questo signore dopo un po' mi chiede, ma lei è straniera? Ho detto, sì, sono straniera. E di dove viene? Io ho detto, del Canada. Oh, mi dice, pensavo fosse albanese. E da lì è il mio sogno, andare in Canada. Da lì è cambiato da così a così. Chiaro, altrimenti non si sarebbe meritata nemmeno l'attenzione del fornitore di gasolio. E questo atteggiamento che lei registra, fa notare con questa aneddotica, poi sui bambini è particolarmente doloroso. Viene percepito? Sì, infatti noi abbiamo fatto un'indagine che poi ha stupito pure gli insegnanti che fanno parte del gruppo di lavoro con i suoi risultati dall'intensità. Abbiamo chiesto a più di 300 bambini che sono insegnati qui nella Valle di Susa dove vivo io, mi offendo quando? E dovevano scrivere cosa offendeva. Questo per tutti i bambini. Devo dire che era straziante in tutti i sensi, infatti i risultati abbiamo integrato non solo l'idea dell'etnia ma anche altre cose. Ma una cosa che abbiamo. Ma rimaniamo all'etnia, rimaniamo alla provenienza. Allora, la cosa più importante che abbiamo visto è proprio il fatto che qualsiasi bambino che avesse un'etnia diversa era preso proprio per quello. Addirittura, questo mi ha proprio colpito, una ragazza che dice mi offendo quando mi sento dire rumena. E lì siamo questo veramente... senza che vi sia abbinato un aggettivo denigratorio, semplicemente l'indicazione. Esatto. Perché secondo lei questa bimba o ragazza si sentiva offesa quando veniva additata per la sua provenienza? Sicuramente il modo usato, per esempio c'è un altro ragazzo marocchino che dice, lo fa un po', descrive un po' di più in modo volgare, quando mi dicono in modo volgare che sono un marocchino. Penso che ci sia un pezzo sottinteso nell'utilizzo di queste parole, queste nazionalità, che è una cosa che sembra normale, però il modo che si presentano queste parole. Sì, non c'è bisogno di aggiungere altro. Mauro Valeri, tornando all'episodio del ciclista, rileggevo la ricostruzione su alcuni giornali internazionali che fornivano più dettagli è stato necessario l'intervento di un ciclista brasiliano che aveva vissuto in Italia per tradurre l'insulto, ma quello che aveva portato a denunciare il fatto fatto era il fatto che avevano capito nero, negro, senza che poi ci si aggiungesse schifoso e tutto quant'altro è stato, secondo i testimoni, pronunciato dal ciclista italiano. Quindi già solo il riferimento razzistico non aveva bisogno di aggravanti agli occhi, alle orecchie di qualcuno abituato a un'altra sensibilità. Lo ricordiamo, in Brasile vigono delle leggi antirazziste decisamente serie, ben più come dire, pesanti di quelle che abbiamo qua in Italia. Sì, diciamo, questo è un po' un problema di quello che adesso si dice il politicamente corretto, nel senso che ci sono dei termini che in tutti i paesi sono vietati perché sono considerati denigratori. Il termine negro, per esempio, è un termine che dovunque è considerato come un dispregiativo, quindi in molte volte basta soltanto quello per far scattare anche una denuncia. Nel caso specifico è stato anche aggiunto un aggravante, che è anche un altro termine denigratorio. Questo, dico, in Italia è abbastanza, c'è poca attenzione, come se noi non avessimo mai avuto un razzismo antineri, diciamo così. Invece dall'esperienza coloniale, poi anche in tempi molto più recenti, c'è stato uno specifico razzismo contro i neri, che è un razzismo molto pesante anche. Io posso citare un episodio per ricollegarmi a quello che diceva prima. Un episodio suo? Sì, un episodio che mio. Allora la lascio in sospeso un istante, ce lo racconta questo episodio tra poco. Prima dobbiamo andare sulle strade d'Italia a controllare come sta andando il traffico. 24 mattino estate. Ho promesso a Mauro Valeri di fargli raccontare l'episodio che lo riguarda subito dopo la viabilità. Professore, se ha pazienza, invece la rimando ancora di poco questo appuntamento, perché siamo riusciti a raggiungere Mirko Rossato. Allora, chi è? Innanzitutto buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Mirko Rossato è il direttore sportivo che in questi giorni è stato chiamato a precisare cosa sia successo, e naturalmente le chiediamo la stessa cosa. Marco Coledan e quanto è accaduto al Tour de Rio, lei ha detto, può avere a che fare con il nervosismo ma non certo con il razzismo, è così? Sì. Qual è la sua lettura dei fatti allora? Ma guardi, eravamo in gara e ovviamente in un momento di gara, in un'azione partita da Coledà, uno scatto, un tentativo di fuga, gli è dato dietro questo ragazzo, teniamo presente che questo ragazzo ha 33 anni. Ah, non 23 come avevamo letto, 33 anni, quindi un uomo maturo, insomma. È del 77, sì. È del 77. Niente, praticamente non gli dava il cambio, questo qui gli ha detto più volte la parola che sappiamo tutti, ha offeso sua madre e gli ha lanciato una borraccia. Questo si è girato così e gli ha detto, l'ha mandato a quel paese chiamandolo negro. Il discorso era finito lì, alla fine della corsa questo uomo, non questo ragazzo, è andato all'organizzatore dicendogli, guarda, questo mi ha chiamato negro. Nessuno ha preso in considerazione e nessuno gli ha chiesto a Coledà come andavano le cose. Lì in Brasile l'organizzatore, che io conosco molto bene, mi ha contattato e ha detto, guardi, questa situazione qui in Brasile è molto grave, la situazione, sarebbe meglio per tutti che lui non partisse, anche per dare un buon segnale. Io d'accordissimo, perché sono stato d'accordo di non farlo partire, perché questa cosa è molto grave, quanto comunque molto grave comunque anche il gesto e l'affermazione di questa persona qui. Cioè, secondo lei un insulto, poi che ci sia una connotazione razzista, sì, o meno? No, razzismo non c'è, io credo che quella parola lì, non so se gli è venuta così, ma Marco è sempre stata una persona molto coerente, molto seria, e non ha mai dato segni di razzismo, tantomeno il sottoscritto, che sono stato accusato perché l'ho difeso. Io non ho difeso nessuno, l'abbiamo punito, noi siamo tornati a casa non partendo l'ultima tappa. Noi siamo tornati a casa ieri dal Brasile, domani ci incontreremo con la società e lo sanzioneremo come poi dopo deciderà il Presidente, e in che modo e in che forma. Ma questo per dare un segnale a ragazzi. Per quanto riguarda il sottoscritto, invece, io in squadra mia ho un ragazzo rumeno, c'ho un albanese, uno della Repubblica Ceca. Ho preso dei ragazzi argentini e gli, quindi lei non si sente per niente né razzista. Beh, senta Mirko, guardi, io non lo è, sostiene, giustissimo. Mirko, le devo fare una domanda. Mi può fare un esempio di razzismo? Cos'è razzismo allora? Guardi, io non saprei neanche come rispondere che cos'è il razzismo. Per me il razzismo è quelle persone che ci mettono quella cattiveria, quelle persone che gli danno fastidio, che si trovano in quel momento lì, quelle persone che gli proprio non le considerano nemmeno più in questo ambiente, che le odiano. Io credo che il razzismo sia questo. Io il razzismo lo vedo in questa maniera qui. A me personalmente, o credo persone di colore, non mi danno noia, anzi io ho ospitato un ragazzino dell'Eritrea 2 mesi a casa mia per poterlo allenare, pertanto da parte mia non c'è. C'ho mia figlia più piccola, per dirle, che va all'asilo e ci sono tante ragazzine di colore che vengono, giocano a casa mia. Cioè, il razzismo lo vedo in questa maniera qui: non avere nessun contatto con nessuna persona di colore, la chiusura totale, insomma, intorno esatto, a sé, esatto, verso chi è diverso, quell'odio verso queste persone manifesto ed esposto, esatto. Questo è per lei il razzismo. Mirko Rossato, grazie, rimanga con noi. Tornerà Mauro Valeri, professore. Sì, volevo commentare una cosa. Cioè, sì, cerchiamo di sintetizzare perché abbiamo moltissimi ascoltatori che vogliono parlare. Sì. Sì, esistono varie forme di razzismo. Quello che descrive il signore è una forma di apartheid. Quindi la persona ha dato, il ciclista ha fatto un'affermazione razzista. Lui probabilmente non è una persona che ideologicamente razzista, ma quella frase è razzista e come tale va punita. E fa riflettere il fatto che avvenga nel mondo sportivo, dove gli sportivi sono vincolati a avere atteggiamenti invece non razzisti, neanche nel dire le frasi razziste, tant'è che vengono punite anche nel campo di calcio, fatte da calciatori. Fa riflettere comunque come non venga vissuta con consapevolezza la sensazione che ci sia del razzismo, quando poi dalle parole non seguono i fatti. Cioè, nelle parole in sé la gente non vede qua in Italia una grandissima serietà, una gravità, una conseguenza che può ferire. Invece le parole feriscono. Lei voleva citare un episodio, Valeri. Sì, io sono stato, come dire, protagonista per mio figlio, un bambino meticcio, era adesso un po' più grande, perché mia moglie è etiope, e lui è stato insultato da una persona sull'autobus quando aveva 6 anni, e gli è stato detto appunto anche a lui sporco negro fuori dall'Italia, e la reazione, al di là della denuncia, la reazione che volevo invece evidenziare è che lui, dopo qualche giorno di settimane di nervosismo, ha detto: io voglio diventare bianco, perché se essere nero vuol dire essere insultati, è una cosa che non voglio avere. Grazie. Lo dico per far riflettere a chi invece pensa che non è un episodio molto eloquente. Giorgio da Vicenza, buongiorno. Ah, buongiorno. Ecco, io volevo associarmi all'episodio del corridore. Sì, ecco. sì. Allora, andiamo al punto, scusi Giorgio, ma siamo in chiusura. Sì, no, volevo dire, io lavoro in mezzo a tanta gente, faccio consulenza aziendale con tanta gente extracomunitaria, di colore tutto. Allora, naturalmente i veneti sono delle persone molto disponibili, assolutamente antirazzisti, però bisogna sempre vedere le situazioni volta per volta, perché tante volte succede, è capitato anche a me di vedere, che queste persone qua in Italia che vengono così, lavorano in mezzo agli altri, a volte magari succede che provocano anche le persone, e di conseguenza vengono fuori poi delle parole. No, poi uno Giorgio, malamente. È chiarissimo, come tutti, se provocati, ecco. Reagiamo. E qui il riferimento, la sottile differenza è alla provenienza. Per esempio, capisce cosa intende? Può essere qualsiasi cosa. Può essere anche io ho girato tutto il mondo, no? Mi scusi, tutto il mondo, nei 5 continenti, a volte gli italiani vengono visti, sa cosa abbinano? Italiani mafia, no? Ma è successo veramente più di una volta, sottoscritto in giro per il mondo. Sì, non. Poi uno lo chiarisce, però non è che mi sono messo a far a pugni, oppure ho chiarito che io non ho niente a che fare con determinate situazioni. Non si sta dicendo che gli italiani siano semplicemente percepiti in maniera positiva e di conseguenza si permettano dall'alto del loro piedistallo di essere razzisti. Il razzismo spesso avviene anche tra coloro che ne sono vittime. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Verona. Sì, Alessandro, dica. Che insomma negli anni è stata anche città protagonista, soprattutto nello sport, di alcuni episodi un po'... sono salite alla ribalta delle cronache, ultimo quello dell'allenatore Mandorlini. Sì. Ecco, qui però spesso ci si dimentica anche di guardare anche le provocazioni. Nessuno ha parlato del portiere della Salernitana che nello stesso giorno era in curva con con una maglietta con scritto odio Verona. E questo è razzismo? Cos'è provocazione? Come lo classifichiamo? Alessandro, grazie. Mandarino picchiato negli spogliatoi, un allenatore professionista picchiato. Hanno impedito al presidente del Verona di accedere alla tribuna d'onore. Cioè, queste sono provocazioni che nessuno valuta. No, veramente sono state anche riportate. Alessandro, comunque, grazie. Lisa Riemma, pronto? Io infatti sto ascoltando. La differenza tra l'insulto, che naturalmente ferisce e fa male, e l'insulto con riferimenti alla provenienza addirittura, non solo alla pelle o alla cosiddetta razza, altrove è sanzionato, nel senso che lei che provoca, che si comporta male, che allunga le mani, potrebbe per esempio in Canada essere coperta di improperi, ma se il riferimento è alla sua italianità, scatta la sanzione immediata. Questa è la grossa differenza che non si coglie. Dalla provenienza non ci si libera. Lisa, com'è la legislazione in Nord America? Diciamo che, come io facevo il giornalista freelance, in Canada è talmente serio che se c'è un reato o che è stato commesso anche da una persona che proviene da fuori del Canada, se non c'entra con la storia, la provenienza non appare. Anche se coinvolto è una persona che si è macchiato di efferati crimini. C'è molto da discutere, lo continueremo nella pagina Facebook di 24 Mattine Estate. Per ora saluto tutti, ringrazio da Irene Zerbini e l'augurio di una buona giornata.